Hai sempre saputo che non ce n'è. Chiamai rinforzi, io do colpi forti con il mic check, lo sai man. Sono il samurai, se in freestyle le rime salgono di livello high tech. Adesso fight it. Rimo calci volanti time man. Mire bastardi con tanti montanti, ma non è un fight club. Questo è fight rap. Ti sgozza appena ti fai re. E uccido sti scarsi finché non vedo la mia faccia da culo su Rai 3. Rai 3. Tiri e decidi se tiri tiri o se tiri tiri indecisi qui. Ma time man, ti stoppo time break. Sogni profondi good night bad. Rendo le tue notti insonni, sogni incubi, chiamami Nightmare. Mi vuoi affrontare ma non mi batterai, I'm a Batman. Ogni rima è un battito d'ali, butterfly effect. Ti rengo naufrago come Castaway, ma questo è rap, quindi non cercare il Mayday. Oggi è tuo dai day, dai day, dai day, dai day, dai day, dai day, dai day. Quindi non cercare il Mayday, oggi è il tuo dai day. La vita me la prendo a colpi di macete, con la sete di sapere di Freud e Archimede. Fate i capi, chi siete, in giro chi vi vede. Voi plebe, io sangue blu, rap in loop nelle vene. Leone fra le iene, faccio muovere il sedere. Delle fly che sanno fare come si deve. Baby, lascia perdere, sono matto e fuso. Mi trovi che fumo, sto spliff che ho appena chiuso. La tana del leone è un'arma a doppio taglio. Chi mi odia, chi mi ama, per un motivo o per l'altro. Ste prede me le sbrano come gardo, mi basta uno sguardo e che io ciao. Fuori dal palco strappo ciò che mi spetta, lo sciacallo scacco a re in 04 mentre parli faccio. Non plagio rime come te, fai ridere macio. L.O. mentre che flow perfetto boccaccio. Coglione, strano studio. Lopi Morpheus, fuori dal cazzo, appizzala, appizzala adesso se me la passi, ma inalterabile mixtape. Yo, volume 1. Hai capito, no? La merda nuova a Ravenna. Motherfucker Dick. E già lo sai, lo stile, le metriche, le liriche, l'attitudine, la passione per le teste hip hop, quelle vere rimaste là fuori.